puoi passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Noi siamo i giovani, i giovani più giovani. Tu non ci crederai, Parenzo, ma oggi si discute, tra le altre cose, nel mondo della politica italiana, e di una sorta di documento. Ne parlano nei bar, ne parlano ovunque. Se tu esci per strada, hanno presentato un documento per rifare l'area moderata. Viene addirittura fotocopiato e distribuito, cioè sono le file delle persone. Ma lo sai chi lo ha presentato questo documento? No, ma i due artefici di questo documento, no? Sì, che tu hai già letto tutto con dovizia di commentato. Sì, nelle virgole, tutto. Due giovanissimi. Sì. Signor Pisanu, classe 1937, deputato per la prima volta nel 1972. E già nella segreteria di Benigno Zaccagnini, e lascio perdere, mi fermo Benigno qui. Benigno Zaccagnini! E poi l'altro compare che l'ha presentato, sai chi è? No. Signor Dini, Lamberto Dini. Ma i due giovanotti, diciamo. Classe 1931. Si discute di un documento presentato da Pisanu e Dini. Amico, ma di cosa stiamo parlando, amici miei? Ti voglio far ascoltare un passaggio, una prolusione del dottor Pisanu. Una prolusione, pochi secondi. Una prolusione di qualche settimana fa del signor Pisanu, qualche anno fa, non mi ricordo, tanto è uguale. I cattolici non pensano più all'unità politica che fu gloriosamente rappresentata dalla Democrazia Cristiana, e tantomeno pensano all'ingloriosa... Hai capito? Il documento per rifare l'Italia dei moderati. I cattolici in politica dove staranno? Dobbiamo interrogarci e capire. Ma come? A chi te frega? L'intemerata di Giannino, torniamo alle cose più serie, contro lo Stato tossicodipendente. Non bisogna tornare alle preferenze, lo Stato deve dimagrire, perché le preferenze e il proporzionale sono l'anticamera, la premessa dello Stato che ci soffoca. Giannino. La proporzione alla spesa pubblica a deficit elevata, questa è la lezione del secolo scorso. E io il tossicodipendente Stato lo voglio fermare! A San Patrignano lo voglio mandare, è chiaro? Viva Muccioli! Li chiudeva anche nelle gabbie quando era il caso, e rischiava i processi per questo che affrontava. Lo Stato non avrebbe bisogno di niente di meno. Lo Stato in gabbia, senza cibo, senza nulla, questo deve essere l'insegnamento, l'obiettivo per tutti, questo deve essere. Grande Oscar. E la Zanzara 800 24 00 24. Ma a te non scandalizza nulla? Cosa? Della vicenda? Cosa? Dell'albergo a 7 stelle alle Antille di Formigoni a 45.000 euro a settimana. Ma perché uno non può andare in un albergo a 7 stelle? Non ho capito. Qual ma è uno il problema? Può andare dove gli pare, ma dovrà dimostrare che ha pagato lui 45.000 euro. A parte che questa euro... inversione dell'onere della prova è curiosa, cioè deve essere Formigoni a dimostrare di aver pagato lui quando non è nemmeno indagato. Ma cioè, lascia perdere, dico... l'opportunità politica, che quello è un altro discorso. Siccome, ma non ho capito perché detto... deve dimostrarlo lui in primis. La prima cosa è questa. La seconda, tu ti scandalizzi perché vai in un albergo a 7 stelle. Tu che sei sempre lì agli alberghi a 5 stelle, pagato dalla 7 quando ci vai. Mi va bene. Beh, adesso guarda qui, veramente, guarda, io intanto non uso soldi pubblici. Ma perché? Che ne sai che ha usato soldi pubblici? Non è l'accusa, infatti, che fanno a Formigoni. Infatti non è questo di cui stiamo parlando. Lo accusi Formigoni per il fatto che gli piacciono gli alberghi a 7 stelle. Allora qual è il problema? Semplicemente una cosa: l'albergo lì risulta costare 45.000 euro a settimana. Sì. Allora chiedo solo due cose. Siccome stiamo parlando di un personaggio pubblico che ha governato bene la regione Lombardia, dico, chiarisca i rapporti con il suo amico imprenditore. Se risulta che il suo amico imprenditore che ha ricevuto commesse dalla regione gli ha pagato 45.000 euro a settimana, non c'è reato, ma c'è qualche problema, amico mio. Sì, non caro, c'è dubbio, amico, no, ma su questo io che ci dico siamo... solo che voglio sapere, perché ho il diritto di sapere, perché è la regione nella quale io ho vissuto per 10 anni. Benissimo. Ed è una grande regione. Restiamo alla regione Lombardia, perché ci sono le mitiche frasi ancora dell'assessore La Russa, Romano La Russa, ieri in consiglio regionale. O vuoi sapere, abbiamo capito, però io non voglio sapere. Sì, vuoi sapere, benissimo, vuoi sapere. sapere. Adesso lui ti fornirà, se gli fornirà questi famosi versamenti al signor D'Accò, sì, a te e all'opinione pubblica. Tu non lo ritieni importante sapere chi la russa, ha pagato la vacanza? Sì, certo, come no, è dal primo giorno che lo dico. La russa. E allora voglio sapere 45.000 sì, ma euro non ti scandalizzare per le 7 stelle, i 45.000 no, euro, quello è un dettaglio. Mi chiedo anche se uno che ha lo stipendio, come è lo stipendio di un presidente di regione, può permettere di pagare 45.000 euro a settimana. Ma quello no, probabilmente l'avrà diviso, come dice, vediamo, vediamo. La russa, stai zitto, la russa, un attimo, stai zitto, c'è tempo. Romano La Russa, Romano La Russa, che dice: l'umanità si estingue con le coppie omosessuali. Romano La Russa, ieri al Consiglio regionale della Lombardia, ancora, dopo un dibattito sulle affermazioni fatte qui alla Zanzara. Ribadisco però il parere che una coppia dovrebbe formarsi tra soggetti in grado di procreare. E in modo lapalissiano evidenzio che il giorno in cui non ci fossero più coppie etero, la nostra società sarebbe destinata all'estinzione. Ma signor La Russa, Romano, è come dire, se fossero tutti preti non si farebbero più figli, è la stessa cosa. Certo, su, certo. È una stronzata, diciamo la verità, questo paragone. Però, insomma, se ne può discutere. Che abbiamo anche? Ah, un altro che fa il paragone con Gesù, è Castelli, Lega Nord. Anche Gesù ha sbagliato scegliendo Giuda, e lui si riferisce ai suoi rapporti con Belzito. Sentiamo, sempre sto Gesù di mezzo, l'ho lasciatelo in pace, no? C'è ma stato un signore uscire, molto più importante di me, che aveva tra i propri collaboratori un certo Giuda, voglio dire, che senza peccato scagli la prima pietra. Ma infatti hai visto come gli è finita a quel signore, ha sbagliato il collaboratore. Certo. Abbiamo allora, sbagliato il punto, il punto è che non potete... Poi c'è la questione della Lega, della casa di Calderoli oggi, della casa di Calderoli, certo, al Gianicolo, e ho letto una battuta bellissima oggi su Twitter: dall'alto del Gianicolo guardava benissimo Roma Ladrona, dall'alto della sua casa al Gianicolo. Però devo dire la verità, se questa è una casa ufficio pagata dal partito, beh, insomma, adesso voglio dire, non, con i soldi della Lega qual è il problema? Se è una casa ufficio, naturalmente, se è una casa dove ci andava solamente a dormire, era meglio pagarsela con i soldi propri e non con i soldi pubblici transitati attraverso la Lega. Va bene, 800240024, primo ospite della serata, è con noi l'agente Betulla, il mitico Renato Farina, PDL. Beh, buonasera. Cominciamo molto male, ma comunque perché l'agente Betulla, dai, smettila. Ah, vabbè, ma ogni volta facciamo così, no? Adesso... mi è piaciuto molto che in un suo documento ufficiale l'Italia dei Valori ha sbagliato e mi ha chiamato l'agente Libellula, mi sembra più carino. Ah, così ha scritto, ma quando è successo questo? L'agente... controllate su internet, scrivete agente Libellula Renato Farina, vedrete che esce una cosa dell'Italia dei Valori. L'Italia dei Valori contro l'agente Libellula. Senta, ma potrei avere anche un nome in codice, ad esempio, perché io che nome in codice che ha Farina, che i servizi, che nome in codice mi potrebbero dare a me e a Cruciani, ad esempio? Ma non so, dipende da quali servizi, il KGB potrebbe... era più simpatico nel dare le sigle. Potrebbe essere DAV che anche che brutto agente così, ma gli somiglia almeno. Sì, agente Crux DAV e Crux Crux, però Crux somiglia molto al maleficio di Harry Potter, no? Che ti ricordi? Crux era quello che faceva crepare. Ma come si fa? Come faccio? Spiegami una cosa, onorevole Farina, ha detto Betulla, come si fa a entrare nei servizi, ad esempio? Se Cruciani volete dare un... non è entrato. Studiare molto, quindi è impossibile. Non è entrato. No, ma se Cruciani volesse fare il... No, ma io non voglio entrare nei servizi. Stai zitto tu. Se Cruciani volesse diventare un informatore dei servizi, cosa dovrebbe fare, ad esempio? Ma secondo me lui è già... Ma come lo sono già? Ma che stai dicendo? Impazzito? La gallina c'è tanto, ha fatto l'uovo. Cioè, senza saperlo, dice lei. Lo sono già senza saperlo. A sua insaputa. A mia insaputa sono agente dei servizi, secondo Renato Farina. Perché femmini la strategia della tensione, quindi sei al servizio dei servizi deviati. Senta, ma le faccio una domanda molto diretta. Per tutto quello che sta uscendo, non dal punto di vista giudiziario, dal punto di vista politico, il signor Giussani, Don Giussani, si sta rivoltando nella tomba per quello che accade al mondo di CL, i rapporti tra Formigoni, uomini d'affari, eccetera? Ma guarda, io penso che Don Giussani non si sia mai scandalizzato di nulla, si scandalizzava soltanto del come posso dire? Che ne so, se non lo sai tu. Del moralismo. dell'umanismo, dell'incontrare, cioè del credere che gli uomini da soli sono capaci di salvarsi. Ah. Questo è. Però io. Cioè, insomma, che cosa avrebbe detto? No, d'accordo, però cosa avrebbe detto? Avete prima criticato quelli che si accostano a Gesù, io cerco anche di non accostarmi a Don Giussani. Ma oggi che cosa avrebbe detto Don Giussani di fronte a questo? Secondo te, secondo Renato Farina, uomo di CL, avrebbe detto: ragazzi, state attenti. Non so. Vabbè, state attenti, quello lo dice pure. No, non so cosa avrebbe detto. Prima di tutto, avrebbe voluto bene a tutti, no? Cioè, nel senso che parte da un affetto, no? Tutto il giudizio parte da un affetto. Non avrebbe rimproverato Formigoni? E non so di che cosa va rimproverato, è stato che va in vacanza. Amicizie pericolose, che amicizie. No. Le amicizie pericolose sono all'ordine del giorno. Inappropriate. Guarda, ci sono quelli che vanno in vacanza con i giudici, sarebbe l'unica vacanza di gruppo abbastanza sicura in Italia oggi come oggi. Cioè, ci sono anche quelli che vanno in vacanza con i giudici e quelli che vanno in vacanza con gli uomini d'affari, non c'è niente di strano. No, ma voglio dire, uno ha una storia, una vita. Si creano delle amicizie, dei rapporti, sì. Dopodiché si sceglie di coltivare queste amicizie, no? Dopo sì, d'accordo, ma non è inopportuno che un presidente, scusa Renato, c'è il traffico, poi riprendiamo subito dopo. Non è inopportuno che un presidente della Regione Lombardia vada in vacanza con uno che poi fa affari con la Regione Lombardia? Rispondi tra un attimo dopo il traffico. Noi siamo i giovani, più giovani. Siamo Pisanu e Dini, promotori di una iniziativa per andare oltre il PDL. Ma vi rendete conto o no? Di che stiamo parlando? Aiutami tu, Parenzo, aiutami tu. Mamma mia, Pisanu e Dini insieme. Sono per carità, io non è che sono un giovanilista. Uno del 37, uno del 31. Fatemi i conti di quanti anni hanno in due, vi prego. Fatemi i conti, 37 e 31, poi ditemelo. Senta, Farina, dove eravamo arrivati? Sì, aspetta che volevo dire una cosa su... Cosa? Pisanu e Dini hanno risposto, che hanno quell'età lì, hanno risposto all'appello di Napolitano che ne ha 5 di più, quindi... Non è che siccome le dice Napolitano vanno bene, siccome ci dicono delle cose Dini... Vabbè, Napolitano ha detto una cosa un po' più generica, questi hanno fatto... Sì, ma voglio dire, non si giudicano i contenuti dall'età, dai, questa è una forma di razzismo. No, ma non ho detto... battute sull'età non serve, se l'avesse detto... No, Renato, scusami, io sto dicendo che per... di 103 anni cosa avreste detto? La stessa cosa, ma non è nessuno si mette in testa di rifare un nuovo movimento politico, una nuova iniziativa politica quando tu dovresti essere fuori dal Parlamento, su, diciamola tutta, cioè non è che ci possiamo aspettare un nuovo movimento politico da Dini e da Pisanu, cioè mi cascano le braccia, Renato, su. Ma almeno loro si danno da fare, danno un senso alla loro età, cioè voglio dire, in tutto il mondo le persone anziane dovrebbero essere quelle di esperienza che spingono le cose, non vedo perché, ma noi allora stabiliamo in Costituzione che non si può fare politica dopo i 60 anni, ma no. Non è questo, ma non è quello il punto. No, ma ho capito cosa vuoi c'è dire. La c'è la pensione politica, cioè tu puoi fare il... Cioè, come tu non puoi, a prescindere dai contenuti, rendere ridicolo prima la cosa, perché non è giusto. Beh, a parte che io sto facendo un po' di provocazione. Sì, cioè, è giusto il punto è questo. A me ha fatto ridere una parola che usano, il bipolarismo ormai è deruto. Che cosa hanno scritto? Deruto? Che vuol dire, io ho capito, dirupato, deruto, comunque hanno usato questa parola. Beh, ti rendi conto o no? Nobile, cioè, gente colta, cioè non credo che Filippo l'avrebbe mai usata. Ma che sia gente colta non c'è dubbio, ma è il fatto che vogliano creare le condizioni, cioè non lo so. Ma è una roba che non c'è nel paese, ma è una roba... Comunque, ma vabbè. Che non è malato. Non è una cosa contro i vecchi, figuriamoci. Ma lo so, dico però che senza dire i contenuti di questa proposta, che è una proposta che vuole purtroppo rifondare il bipolarismo su altre basi, cioè andare oltre il PD, tutte queste cose qui che dette così fanno un po' senso, però vuole andare oltre l'ideologia che sta dominando. Ma tu sei con loro? Non sono con loro. Però cerco di capirli e sicuramente non sono persone... Ma è stato opportuno, banali. Torniamo a Formigoni, secondo me, allora... No, scusate, un attimo solo, ma volevo sapere una cosa, è opportuno, ecco, ritorniamo al punto di Formigoni, è opportuno o no andare in vacanza con D'accordo? Questo però non è che è un forse, bisogna dire sì. Ascoltami, o no. Ex post ti dico di no, Formigoni per come lo conosco è uno che vive le cose con grande purezza, cioè lui era certo che in qualsiasi modo non ci sarebbero stati nessun tipo di, come posso dire, di cattive cose per il bene comune, per il bene pubblico. Vabbè, ma... è andato in quel momento, tra l'altro, non ma lo sapeva quello che faceva D'accordo, no? Consapevole, no, questo non lo so, se Formigoni era consapevole che D'accordo si spacciava o era no, ma lasciamo intermediario con la regione. Ma come non lo sapeva? Non sapeva che D'accordo faceva l'intermediario con la regione? Questo sarebbe clamoroso, cioè sarebbe addirittura peggio. Sarebbe peggio. Cioè... Aveva rapporti con l'assessore. Però ascolta, io non sono il portavoce di Formigoni, no. E non so. Guarda, esiste un tipo di educazione che porta il fatto di andare con tutti, di non chiudere le porte a nessuno, e questo può portare a delle frequentazioni che sono imprudenti. Ma comunque sono imprudenti o no queste frequentazioni? Ex post, alla luce tu di dici... quello che è successo, sono stati imprudenti. Sono stati imprudenti. Io non so se lui si rendeva conto di quello che si... Peggio ancora, secondo me. Comunque, vabbè. Senti, Renato, voglio chiederti una cosa. Ha ragione la Russa? Però io lo conosco così. Cioè, Formigoni... le cose che fa è arci convinto che siano giuste. Vabbè, ho capito, ma che può essere in politica, può essere una cosa che espone a degli attacchi. Poi però al di là del naturalmente del ma ha fatto bene a citare Gesù, ha fatto bene, per esempio? Guarda, è una vecchia citazione di Enzo Biagi. Il primo che l'ha fatta è stato Enzo Biagi, poi l'ha seguita. Vabbè, Biagi fa il giornalista. È scappata perché la nostra cultura, in tutto intorno a Gesù, il Vangelo, viene sempre il paragone con Gesù. No? Dunque è da perdonare per questa cosa. Io non prendo le distanze da questo. Io in questo momento mi rendo conto che in qualsiasi modo prenda le distanze da Formigoni, lo espongo ulteriormente ad un isolamento che è profondamente ingiusto. Ma perché isolato? È isolato anche dentro CL in questo momento? No, non è isolato dentro CL. Non credo assolutamente sia isolato dentro CL, perché i suoi amici restano suoi amici. Ma poi anche Don Berzè, scusami Renato, anche citare Don Berzè sulla Minetti, uno che non può dire nulla ormai, cioè sulla storia. Mordo. No, ma l'ha detto quando era ancora vivo. Sì, una volta l'aveva detto anche quando era vivo. Ma scusami Renato, che è vero. Poi lui, cioè in politica, la politica è fatta di rapporti di forza, no? Cioè a Berlusconi spettavano alcuni posti nel listino. E no? Ha imposto la Minetti. Allora, Berlusconi ha proposto la Minetti. E perché non dirlo e risolvere in questo modo? Devo chiudere e torno anche con Renato Farina tra un quarto d'ora dopo il giornale radio. Rimanete lì, 800 24 00 24, ancora moltissime cose da raccontare, avremo anche la Borghezio Collection. Siamo qui di nuovo in diretta, 800 24 00 24, per bene. Chiamarci, caro Parenzo, è sempre con noi. Fra poco ci ricolleghiamo con la Camera dei Deputati, con Renato Farina, uomo molto vicino al Comune di Liberazione, dunque molto vicino a Formigoni. PDL intanto... Ma perché non proviamo che cosa? A guardare sull'elenco, a chiamare il SISDE, ad esempio, i servizi segreti della realtà? Ce l'ha un numero di telefono? No, non è che c'è un numero, il SISDE, ma che dici, sei impazzito? Chiamiamo i servizi segreti, buongiorno? Vabbè, facciamo partire la Borghezio Collection, la facciamo partire naturalmente con il vappensiero di sottofondo. Borghezio Collection, grande iniziativa della Zanzara. Molto bene. Volume 2, Le origini. Padania libera, bianca e cristiana. Questa è la Borghezio Collection, volume secondo. Viale Jenner, covo di islamici, sentite come li definisce. Ricordo. La Lega aveva indicato per tempo in Viale Jenner un covo di cornuti islamici bastardi che bisognava buttare fuori a calci nel culo. Solo la Lega! Solo la Lega! E poi sull'Italia, uno sull'Italia, me, mettiamo in questo volume secondo. Mi mette di buon umore quando la dice solo la Lega, mette di buon umore moltissimo quello. Roma ladrona, eh. La nostra gente, per la gente umile che lavora, che produce, che si ostina a mantenere Roma ladrona, che non fa un cazzo, ma la cui pazienza ha un limite. Cari signori di Roma, d'opposizione di governo, cari signori alleati, la pazienza dei padani ha un limite. Roberto Calderoli ha pronunciato quella parola che ci evoca tante battaglie, ci evoca il futuro, secessione! Io lo faccio apposta per metterti di buon umore, eh. È una cosa pazzesca. Volume secondo, Borghezio Collection, passiamo ai titoli del TG3 dentro il mondo Mediaset, perché siamo di nuovo in collegamento naturalmente con TGCom24 e anche con Renato Farina, TG3, titoli. Ma perché lo dici così? No, Renato Farina, dico se vuoi lo dico così. Renato Farina, perché lo dici così? È una cosa che evoca, evoca allora il mistero, evoca un po' la, no, la. I misteri della fede. Anche. Metti la musica di Dan Brown del Codice da Vinci, ad esempio, quando parla stai Farina. Stai zitto, titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Dopo ore di dubbi, il ministro conferma che i disoccupati non pagheranno i ticket sulla sanità. Italia, record degli inattivi, 3 milioni rinunciano a cercare un lavoro. Pisano lancia la fronda, 30 senatori firmano un documento per andare oltre il PDL, il terzo polo verso un nuovo soggetto politico, l'UDC pronta ad azzerare i vertici. Costruiamo insieme la casa dei moderati, alla replica di Alfano, e al governo chiede risorse per tagliare l'IMU. L'inchiesta Lega, la casa romana di Calderoli pagata dal Carroccio, l'ex ministro replica verso 3.000 euro al partito, dubbi anche sulle spese dell'ex capogruppo Reguzzoni. Scrive Carla Vites, moglie dell'ex assessore arrestato a Milano, Formigoni conosceva bene mio marito e il faccendiere da Cocchi, chiedete agli chef. Sulla morte di Michele Ferrulli, deceduto a Milano durante un arresto, il PM accusa 4 agenti, lo colpirono ripetutamente mentre era a terra. Foto, sciarpe e striscioni lungo la strada che porta alla chiesa, in 10.000 per salutare a Bergamo Pier Mario Morosini, il giocatore morto sul campo a soli 25 anni. Allora, eccoci qui. Farina, oggi ha sentito anche i titoli del TG3. La moglie di un ex assessore in carcere, Antonio Simone, scrive una lettera che ha fatto scalpore sul Corriere della Sera, in cui attacca frontalmente il governatore della Lombardia, Formigoni, che lei conosce molto bene. E c'è un passaggio molto interessante, anzi, diciamo interessante, molto duro, in cui dice che il governatore segue come un cagnolino al guinzaglio Dacco. No. Insomma, sì, così, segue come un cagnolino al guinzaglio Dacco. Brutto, e è brutto. Evoca insomma rapporti molto stretti, in realtà, per sua conoscenza personale, tra lo stesso Dacco e Formigoni. Che dice lei? Questo è brutto. Pronto? Sì, Farina, che dice sì, lei? Io ho letto la lettera. Cioè, la parte meno credibile di tutte è quella che è quella su Formigoni, che segue come un cagnolino Dacco. Anche fisicamente la cosa è impossibile. Vabbè, è fisicamente che c'entra? Perché Formigoni è molto più. Non c'entra niente. Chiunque conosce Formigoni da vicino e sa il suo carattere, è uno che non fa il cagnolino di nessuno. Ma dice, fisicamente anche molto più. Cioè, Formigoni è alto 1,92, Dacco è molto più basso. Vabbè, ma è un'evocazione questa qua. Chiaro il discorso, ma è più basso in tutti i sensi. Cioè, non ha nessuna capacità. Formigoni è un uomo, voglio dire, nei rapporti personali, ma anche quando conduce le riunioni, ha un'aria da leader anche esagerata, ecco. Non so se riesco a spiegarmi, però non è uno che si mette ad andare dietro a qualcuno. All'inizio sembrava non conoscere neppure questo Dacco, Formigoni. No, non è vero, questo non ha mai detto. Beh, no, però se l'ha detto ho sbagliato, perché non è vero, lo conosce, Sicuramente, non ha mai negato di essere stato sulla sua Beh, insomma, all'inizio non si ricordava, diceva non mi ricordo se ho fatto quella vacanza, eccetera. Guarda, è difficile rapportarsi con i giornali quando ti attaccano, eh. Guarda, su questo non c'è dubbio. Per cui uno non sa mai se qualsiasi cosa dici viene usata contro di lui, per cui a volte si può dire qualche sciocchezza o qualche Lui l'ha detta? Imprecisione. Lui l'ha detta, imprecisione, sciocchezza, sì, in questi giorni. Secondo me, io quelle che ho sentito, lui mi è piaciuto sempre moltissimo perché ha sempre fornito elementi. Un fan di Formigoni. Io sono un fan. Non rinnego, no, fan suppone un rapporto di minorità. Io mi sento superiore a Formigoni. Formigoni come superiore in che senso? Lei si è politicamente superiore? Cioè dovrebbe fare il cagnolino. Sto scherzando, stavo facendo un po' di autoironia. Volevo trattarlo da cagnolino. No, diciamo che in questi giorni ho molto ammirato la sua tenuta anche psicologica. Perché sì, quello è vero, sembra reggere. Sembra reggere. Ho in mente l'inquisizione che ha subito da Gad Lerner, ha retto benissimo. L'inquisizione da Gad Lerner. Beh, erano domande incalzanti non era l'inquisizione. Mettetemi qualche metafora, non ho citato Gesù. Poi su Gad Lerner qualche frecciatina la vuole anche lanciare così indirettamente. No, ma non c'entra questo, per carità. Cioè, è stata obiettivamente una cosa abbastanza dura, no? Cioè, ma fa parte della vita, della politica, ogni tanto confrontarsi con cose dure. Sto dicendo, no, certo. È stata, cioè voglio dire, gli ha tirato un bel po' di cazzotti e lui sta tenendo, ha anche ben restituito, ecco. Cioè, oggi comunque guardi, il 18 novembre del 2011 disse a Radio 24 nessunissimo tipo di rapporti con Pierangelo Daccò, ecco. In un'intervista del 18 novembre 2011. Bisogna vedere cosa intende per rapporti, no? Cioè, non era una battuta, cioè, abusiva. Senta Farina, non entriamo nei meandri dell'inchiesta, ma perché Alfano continua a insistere su questo fatto della famiglia, uomo, donna, eccetera? L'altro giorno l'ha ripetuto anche oggi, in un sondaggio pubblicato sul giornale, che certamente non può essere accusato di essere un giornale anti-PDL, scritto che la stragrande maggioranza degli elettori del PDL sono a favore delle unioni di fatto, matrimoni, eccetera, eccetera. Lei non è d'accordo con questo sondaggio? Guardi, io non ho visto il sondaggio. Di certo sono convinto che esista solo un tipo di famiglia che si possa chiamare famiglia, ed è quella di un uomo e una donna che cercano di avere dei figli. Le altre sono sodalizi ammirevoli, surrogati. Surrogati poi sarebbe forme di comunione ammirevole, ecco, uso una parola molto nobile, ma inferiori. Non c'entrano con la famiglia, è come dire che il gruppo è inferiore alla comunità, non esiste, sono due cose diverse, no? Adesso ha ragione la Russa quando dice che se fossimo tutti omosessuali ci sarebbe l'estinzione dell'umanità? Come hai detto tu prima, è una cosa così la palissiana da rasentare la sciocchezza. Ecco. Ma come la palissiana? Voglio dire. Vabbè, la palissiana, come hai detto tu, come se sono tutti preti o se tutti tagliano via gli attributi, non nasce più nessuno. Ma è un paradosso inesistente. Ha un senso. Questo discorso ha un senso nella logica della filosofia naturale, no? Cioè, voglio dire, cioè la sessualità è l'istinto della sessualità è in vista della riproduzione. Ma chi ha detto? Anche per il consumo? Ascoltami, è in vista, ho detto, non è che il significato assoluto è quello, no? Nel momento in cui non si toglie questo, è chiaro che non esiste riproduzione. Io penso che questo discorso sia giusto in un senso, cioè nel senso che non sto dicendo che è giusto quello che ha detto la Russa. Cioè, praticamente. Sto dicendo questo. Allora, lo Stato deve sostenere tutto ciò che contribuisce alla riproduzione, crescita, alla durevolezza della società. Cioè lei, per esempio, ho capito. C'è il riconoscimento istituzionale della famiglia. Tutto il resto che ha la sua dignità non lo deve non sostenere. Può essere in quanto come posso dire, in quanto coppia, ecco. Ho capito. Senti Renato, un'ultima cosa. Sì. Quando la Russa dice che sono malati e si possono curare, tu che dici? Guarda, questa cosa qui è una cosa scivolosissima, perché io non... Cioè hai incontrato dei gay che si vogliono far curare? La parola far curare è proprio una cosa sbagliata da dire, no? Allora, esiste una condizione in molti di sofferenza, no? Di sofferenza nel senso che... E questi che soffrono che devono fare? Avvertono una distanza tra il... come posso dire? La loro sessualità genitale e il loro sentimento, no? Cioè questo è. Ma molti soffrono, molti gay soffrono? Secondo me sì, io ne ho conosciuti che soffrono, altri invece che vivono questa cosa. Molti gay, e quando qualcuno soffre va aiutato. Ma io non mi sono mai permesso di aiutare nessuno a cambiare idea o atteggiamento però... su questa cosa. Diciamo che quello che io dico è questo, che io sono convinto che si possa vivere all'interno di questa condizione pienamente bene, nel senso non pienamente bene. Un attimo, ho la borsa, torno subito. 800 24 00 24, la Zanzara, discorsi importantissimi, fondamentali. Riprendiamo 19:36 800 24 00 24 con l'ultimo domandone per Renato Farina, che è in collegamento con noi, poi lo lasciamo. Prima ci ha detto molti omosessuali soffrono, e che fare con questi che soffrono, allora, Farina? Io dico questo. Che fare volevo con questi che soffrono? Allora, io penso che effettivamente l'omosessualità, cioè che ci siano molti omosessuali, è un dono. Lo penso realmente, penso che la rivoluzione di Farina, un certo tipo di sensibilità, un certo tipo di sguardo sulla realtà è questo. La sapienza umana della Chiesa chiede il sacrificio di non praticare questa tendenza. Questo è quello che dice la saggezza della Chiesa. Io credo una richiesta molto saggia. Ma cioè, possiamo dire, qual è la richiesta saggia? Scusa. Di non praticare l'omosessualità. Ed è saggio questo. Di non trasformare questa tendenza e questa sensibilità in atti. Questo è la saggezza della Chiesa e la sapienza della Chiesa. Ed è una cosa saggia. Non per. Cioè, non dovete trombare, scusami se la banalizzo. Non devono trombare. Non so se si chiama così, ma è quella roba lì. Ecco. Cioè, non devono fornicare, non lo so, come si dice? Non devono fare atti omosessuali, non e so perché? Come si dice. E perché? Perché la sapienza della Chiesa lo chiede, perché è una cosa che è un disordine rispetto a ciò che la natura ha costruito nell'uomo. E tu ci credi? Io ci credo assolutamente. Ma credo anche che esistano dei disordini benedetti, purché questi non diventino pratica che fa male alla persona che lo fa. Fa male nel senso che non porta il bene. Cioè un omosessuale dovrebbe astenersi dal fare sesso, un omosessuale, secondo te? Perfetto. Sì, ma come perfetto? No, io dico quello che dice la Chiesa, che io credo. No, beh, certo. Detto questo, voglio dire, ciascuno libero di pensare ovviamente in modo diverso, ma io credo che esprimere questo concetto sia... esprima senza dire di parole quello che dice la Chiesa. La Chiesa non ha mai detto dire che e i preti omosessuali, scusa, i preti omosessuali, a parte che lo dice la Chiesa che è peccato, ma come i preti omosessuali? No, non dice che vabbè, adesso non stiamo alle carte. Praticarla. È diversissima la cosa, non so se. E i preti omosessuali come li inserisci in questo? Che prima di tutto la Chiesa chiede che chi ha tendenze omosessuali non si faccia sacerdote. Una volta che lo è, che non la pratichi. Questa è la cosa minima, così come i preti eterosessuali è meglio che non pratichino. È la stessa cosa. Ecco. Non c'è una condanna. Io mi ricordo che Gianni Baget Bozzo, che è una persona straordinaria, stupenda, disse in un'intervista a Mattia Feltri sul Foglio, disse che riconosceva in sé delle tendenze omosessuali. Era omosessuale, no? Diciamo la verità. No, io cito cosa ha detto, io non so, io non credo che la praticasse, questo non l'ha detto, ma non è questo il problema, non so come dire, cioè uno come Gianni Baget Bozzo è imperdibile, non so se riesco sì, a... Sì, ho capito. Perché, però scusa un attimo, la pratica sbaglia, è molto semplice. Oh, bene, non ho capito la pratica. Dire, sbaglia, è un errore, la Chiesa dice peccato, ma non nel senso peccato che vengono giù i fulmini, peccato perché... Ma se uno ha gli impulsi, che deve fare? Renato, scusa, se uno ha degli impulsi a un certo punto, che deve fare? La ragione può governare gli impulsi, no? O siamo... Ma se due persone, scusami però Renato, se due persone si amano, si vogliono bene, anche se non si amano, uomo e uomo, donna e donna, perché non dovrebbero unire i loro corpi? Io penso che non debbano unirli perché esiste un giudizio sulle cose che è più forte dell'istinto e dei sentimenti, cioè c'è una natura dell'uomo per cui l'uomo non è fatto per rapporti omosessuali, è come... cioè l'uomo non è fatto per i rapporti omosessuali, ho capito. Non è fatto per i rapporti omosessuali. Che stavi dicendo? Dici una cosa? È la sua natura, no, cioè voglio dire... Cioè, naturalmente si possono dire molte sciocchezze su questo argomento, perché qualsiasi paragone che si fa manca di rispetto. E qual è il tuo paragone? Qual è il tuo non paragone? Lo faccio perché me lo tengo dentro. No, dimmi. È un paragone che fece un genetista importante che era Lejeune. Dimmi. Quando cercava di spiegare come mai capitasse più spesso agli omosessuali, poi si è visto che non è così, l'AIDS, queste cose, diceva come mettere benzina nel tubo di scappamento, prima o poi il motore salta, questo disse un genetista famoso, che quello schifo. Che ha scoperto la sindrome di Down. No, ho capito, ma che schifo. Infatti non è una bella cosa, io non mi ci riconosco, però lui per spiegare questa cosa usò questo paragone, cioè diciamo... Beh, non ti ci riconoschi, però se la citi qualche fondo di verità ci trovi anche in questa cosa. Mi appello allo stenografico. Cioè? No, ci credi. Prima, no, dai. Ci credi, Renato, su no, dimmi la verità. Ci credo, non ci ma credo come non ci credi? Non si può paragonare una persona a una cosa. Sto dicendo che esiste qualche cosa che non è fatto per queste funzioni. No? Poi dopo, naturalmente, voglio dire, esiste una capacità d'amore che supera tutto. Io non mi permetto di giudicare. Non so se mi... Sì, no, ma ho capito. C'è una sapienza umana della Chiesa che dice di non farlo, no? Tu liberissimo di, no, di non puoi di farlo, non puoi non farlo. Sia... Non puoi farlo. Non puoi farlo, non puoi farlo. Non è che, ma la società, no, non mi dire che la società dovrebbe vietarlo, no, quello ma non è società. No, questo ma no. Ci mancherebbe altro. Ah, ecco, esiste una sfera della libertà individuale che è fondamentale. Ma grazie, no, devo chiudere. Grazie Renato Farina, grazie. 1942 800 24 00 24, ascoltatori, voglio battaglia. Orlando da Ferrara, buonasera. Orlando. Buonasera. Dica. Dottor Cruciani, buonasera. Vada. Io devo cambiare un po' la scaletta del mio intervento. Sì, ma non c'è una scaletta degli interventi in realtà. Noi stiamo qui alla conferenza episcopale, tanto per rimanere in tema. Sì, insomma. Sì, perché poi dopo stando qui in attesa, ascolto il telegiornale, abbeveniamo delle notizie che abbiamo in continuazione. Vabbè, non si, però si sta dilungando troppo lei, Orlando. Vada diretto. Allora... Io sono un piccolo imprenditore, Vabbè, oltre il problema che avete lì, che ne parlate per quanto riguarda dell'omosessualità, io sono 3 anni che... Ma non è un problema dell'omosessualità, ho occupato io il lavoro, vabbè, me lo sono sempre inventato. È arrivata l'ora, penso. E non vorrei far parte di quei piccoli imprenditori che hanno fatto quella fine lì. Vabbè, no, che cioè lei non si vuole suicidare, ci sta dicendo che non si vuole suicidare. Ci fa piacere, non mi suicido perché. E vabbè, questo d'accordo, siamo contenti di questo. Ho sempre speranza nella mia volontà di fare qualcosa. E siamo contenti di questo. Mi è impedita perché io scrivo canzoni, poesie e non riesco neanche a scrivermi a mafiare. Io stasera le volevo dedicare una poesia. Un invito a essere più pungenti con i politici. Sì, più pungente ancora. Sì. Certo, è sempre ben gradita. Lo devo dedicare, è possibile? Sì, Orlando, per carità. Ma lei è disteso, ce la declama disteso da un letto oppure è in piedi? No, è simpatica, è per voi. Allora, no, capito, Orlando, Parenzo le sta chiedendo. Parenzo, scusi un attimo, Orlando, lei scusi un attimo, lei la... ce la sta declamando disteso con qualche persona intorno, oppure no, sono in macchina fermo ad aspettare, e quello è un problema, potrebbe essere un problema. Comunque vabbè, va bene, allora quella le dico, sì, vada, sì, allora la poesia 24, di Orlando 800 0024, sì, sono circa le 18:40, sì, Luciani saluta Parenza che canta, sì, la trasmissione interessante e di seguirli con gli amici dell'Elanto. Sì. Pungi zanzare al politico, pungi anche per me. Beh. Io faccio il tifo per te. Beh. Scherzando, scherzando, Cruciani e Parenzo, zanzare pungenti, le stronzate al politico tirate fuori dai denti. Con l'informazione e tanta ironia, la zanzara fino a casa mi fa compagnia. Pungi zanzare, pungi anche per me, io faccio il tifo per te. Orlando, un applauso ci vuole, ci vuole un applauso, eccolo, grazie, qui, applauso, grazie, della folla, del pubblico, della zanzara, siamo in diretta anche stasera, grazie Orlando. Davide da Torino, buonasera Orlando, non si preoccupi, adesso arrivano. Davide da Torino. Davide da Torino. Davide, e che è sto rimbombo, su, vada. Pronto? Vada. Eccoci. Sì. Cruciani, buonasera. Sì, però Davide, abbassi la radio, spenga la radio, è possibile che lo devo dire 100.000 volte? Ragione, sono appena entrato in casa in questo momento. Vabbè, adesso per carità, no, no, non voglio essere sgradevole, già più di quanto già non lo sia. Ma che bello, come si è promesso, cominciamo proprio bene, cominciamo insomma. Sì. Una cosa, io sì, così non so, ero... Perché praticamente mi state facendo diventare simpatici tutta l'allegra banda leghista voi, perché? Insomma, andate avanti con questa storia. Ma non è che andiamo avanti noi, scusi, abbia pazienza, non è che andiamo avanti noi con questa storia. Le notizie. Cioè, le notizie ci portano a parlare. Lega, che ne dite delle notizie di Formigoni, di Penati, del Vendola dell'ultima ora? Ma guardi, di tutte le altre porcherie, non ci pensiamo a quelle. Ma che vuol dire? Cosa vuol dire? Noi parliamo di tutto, ci sono i titoli dei telegiornali, ci sono le notizie che potete dire voi, ma perché deve chiamare per dire parlate anche di altro? No, tipo il vostro lì, quella cosa carina che fate lì col Borghese, insomma, farla per Formigoni, no? Ma adesso arriveremo anche a Formigoni, questa è una buona idea, Davide. È troppo pesante. No, lei ha ragione. Facciamo sentire. Magari... No, lei ha ragione, la facciamo anche per Formigoni. Guardi, le faccio sentire due frasi mitiche di Formigoni degli ultimi giorni. Adesso le recuperiamo. No, non mi chiudere così. Non lo sto chiudendo così, Davide. Però faccio ascoltare due frasi mitiche. La prima frase mitica è quella dell'acqua. Dell'acqua, sono pulito come l'acqua, eccetera. Adesso la recuperiamo. L'altra frase mitica è quella su Nicol Minetti. L'agenda per capire se andate in vacanza con delle persone in un certo posto. No, ma quello l'ha già detto che è andato in vacanza, insomma, dopo qualche ora ha confermato che è andato in vacanza, deve controllare se ritrova gli scontrini, i pagamenti per questa vacanza collettiva in cui le spese sono state divise. Vabbè, Davide, allora? Ah no, stavo aspettando il collegamento. No, adesso recuperiamo gli audio, dica. No, appunto dico questo, voglio dire che adesso sta cosa qua sia la Lega, tutto insomma notizia, tutto quello che vuoi, insomma, però insomma c'è, tutto il resto c'è anche altro, molto c'è anche morbido, insomma. Va bene, grazie. Marina da Lucca, buonasera. Sì, buonasera, Cruciani. Vada. Allora, io da un po' che non l'ascolto perché ho cambiato un po' gli orari della mia vita. Sì. Però tutte le volte che l'ascolto mi incavolo. Vabbè, comunque questo è buono. Ho preso la radio ed ho sentito che dicevano che le famiglie omosessuali non sono famiglie. Eh no, lo diceva il signor Farina, che lo dice da tempo, in realtà non è la prima volta. Questa cosa mi fa venire rabbia, perché? Non c'è nessuna base sotto, cioè se queste persone avessero letto, si fossero informati e cioè avessero un minimo di conoscenza anche scientifica, sì, cioè avrebbero forse il diritto di parlare. Però non la buttiamo sulla scienza, Marina, non la buttiamo sulla scienza. Lei parla perché si sente particolarmente colpita da questo argomento? Tutto quello che si dice, però se voi andate sul sito delle famiglie, ma io non voglio andare su nessun sito, sono pubblicati tantissimi articoli di persone che hanno studiato in America, ci sono, ma non mi interessa la discussione scientifica, Marina, non mi interessa, siamo tantissimi, siamo delle famiglie, ma perché lei è lesbica? Io sono lesbica e una bimba. Sì. Come l'ha avuta questa bimba? Scusi, per curiosità, come l'ha avuta? Da un matrimonio o da un'unione precedente? L'ho avuta tramite inseminazione in Danimarca, a Copenaghen, una clinica che si chiama Vita Nova. Comunque, al di là di questa storia. Bello. Beh, al di là di questa storia, mi sembra una storia significativa. Al di là. È che se si dice che l'unica famiglia è un uomo e una donna, allora togliamo tutti quelli a cui è venuto a mancare la mamma o il papà perché loro non sono più famiglia. Togliamo tutte le ragazze madri, togliamo tutte le persone che in qualche modo si sono separate, togliamo tutto, togliamo tutte le altre civiltà che ci sono nel mondo che non sono basate sulla famiglia uomo-donna. Benissimo, la ringrazio Marina, adesso non vogliamo genitori come gli altri. Oddio, questi siti analizza le molteplici forme di famiglia che benissimo, non Marina, uomo, donna e bambini. Va bene, benissimo, ha fatto la sua prolusione scientifica spiegandoci attraverso varie citazioni che la famiglia non è solo quella tra uomo e donna, è anche quella di una donna con un bambino, di due donne, eccetera eccetera. Sono quasi totalmente d'accordo, però insomma non è che abbiamo bisogno di capirlo noi che siamo qui a fare quotidianamente battaglia su queste cose, cioè, comunque siamo come lei, 30 secondi, torniamo subito. Il mitico scontro Staderini-Fassina a porta sul finanziamento ai partiti. Staderini, segretario dei Radicali Italiani, versus Fassina. Sentiamo. Ancora oggi noi cittadini abbiamo il coraggio di chiedere dei soldi. Potete chiamare qua da domani mattina e otterrete qualcuno la possibilità di finanziare chi ha fatto una lotta di 50 anni. Ma c'è nessuno che arriva primo. La vuoi capire o no? Che non arriva io chiedo i soldi perché ho bisogno. Se tu non hai bisogno devi dare dei soldi dallo Stato, è un problema tuo. Io chiedo i soldi ai cittadini. Il Partito Democratico. Io chiedo i soldi ai cittadini. Vai Salvini, vai giù qua. È questa la storia, professore. E non si usa, poi tutti quanti rubano poi. Ma quanto avete preso dal Partito Democratico? La devi smettere con tutti quanti rubano. La devi smettere. Che nel 93 avevano votato il referendum. Io non ho rubato niente, il mio partito non ha rubato niente. La devi smettere. Il 93 avevano votato No, scusa, sei un cialtrone. Non è venuto in mente che siete insieme alle Però devo dire una cosa, portare dietro sempre sti cartelli, no? I radicali vanno sempre con sti cartelli, con i numeri e basta con sta storia dei cartelli. Ma chi ha detto no? Sei un cialtrone? Fassina a Staderini, dato che come al solito ti eri assentato dalla comunicazione per No, era caduta la linea. Sì, a Fassina gli ha detto sei un cialtrone, lui aveva i cartelli come al solito. Ma sì, perché? No, ha detto siete dei ladri, no? Avete rotto, tutti rubano. Questa cosa del furto bellissimo, no? Staderini con i cartelli, meraviglioso, i cartelli, le cose. La Mussolini, Alessandra Mussolini, dal mitico Klaus Davi, che dice con Monti c'è più prostituzione. Mussolini, Mussolini. Questa crisi prolungata porta anche a una degenerazione dei costumi, perché uno si inventa quello che può, perché uno può pure andare a fare la commessa o qualsiasi altro lavoro, non è che devi per forza prostituirti, però certo, Monti porta la prostituzione. Monti, il governo. Ma manco lei lo voleva dire, Monti porta la prostituzione, nemmeno lei lo voleva dire. Ride. Va bene. Enea, provincia di Teramo. Enea. Comunque interessante. Pronto? Questa cosa. Pronto, buonasera. Sì. Della casa di Calderoni. Niente, premesso che non faccio parte del Movimento 5 Stelle. E chi se ne frega? Non lo so. Comunque volevo fare una riflessione così, diciamo, simpatica su ciò che ha detto oggi sulla vostra radio Giuliano Ferrara. Sì, che ha detto Ferrara? Dicendo che Beppe Grillo è semplicemente un comico, punto e basta. Quindi non può portare niente di buono a quest'Italia. Ecco, detto da uno come lui che ha fatto per 15 anni propaganda politica e un clown, mi è sembrato molto simpatico. Propaganda politica a un clown. Ferrara, esatto. Chi affiderebbe a Grillo l'Italia? Nessuno, ha detto questa mattina ad Alessandro Mina. Benissimo, però noi abbiamo Giovanna da Verona, buonasera, anzi da Genova. Giovanna? Sì, sono qua, buonasera. Vada, veloce perché dobbiamo chiudere. Mi piace sempre Verona, io amo Verona, ma sono a Genova. Bene. Allora, niente, io diciamo che mi sono molto incavolata quando ho sentito che i politici non hanno più nulla da dire, se non dire anche Gesù ha sbagliato, cioè veramente... Lasciamo, cioè vuol dire che siamo proprio alla fine, cioè più non c'è più argomento. Sì, lasciatelo perdere, ha ragione lei, lasciate perdere, cioè, Gesù, le vicende di Gesù, Giuda, eccetera. Non fate paragoni assurdi, non si tratta di blasfemia, è un paragone assurdo. Ah, fermi tutti. Che succede? Pubblicità. Siamo qui 800 24 00 24. Beh, riprendiamo anche con Rosy Mauro, riprendiamo con Rosy Mauro. Dimmi. Prima una comunicazione di servizio, perché questa trasmissione è una casa di vetro, quindi non ci devono essere segreti. Che è successo? Mi ha mandato un messaggio poco fa il signor Massimo Ciancimino, figlio di Don Vito, già sindaco di Palermo, sì, eccetera, il quale mi ha detto, visto... Allora, però dateci 3-4 minuti di tempo, naturalmente, per recuperare Gaspare, così facciamo passare la depressione a Massimo Ciancimino. Dunque, funzione sociale, funzione sociale della zanzara. Un messaggio sul telefonino me l'ha mandato, vi sto ascoltando, come se... Salutami a Giuseppe. Benissimo, adesso non cercare di imitare inutilmente in maniera anche ridicola Ciancimino. Però signor Massimo Ciancimino, che saluto in maniera, come dire, bene, adesso mi sembra un po' esagerato, insomma, bene, lo saluto il signor Ciancimino affettuosamente, signor Massimo Ciancimino, e fra poco, per farle passare anche un po' di depressione, magari di malmostosità, insomma, di... ci sono cattive giornate, sono giornate che nascono male, insomma, se noi vogliamo avere anche una funzione sociale da questo punto di vista. Dunque rimanderemo fra qualche istante anche qualche piccolo estratto del signor Gasparri, magari quelli con riferimento proprio a Ciancimino. Esatto. E intanto voglio far sentire Rosy Mauro. Rosy Mauro, a proposito di una intervista rilasciata, cioè era Matrix ieri sera, ha detto: con Grillo non escludo niente. Oddio. Con Grillo, sentiamo. Ma allora, se non può tornare nella Lega e ci sono elezioni, lei un pensiero ce lo fa al Movimento 5 Stelle, se mai dovesse essere invitata o contatto con Grillo? Vuole la mia risposta sincera? Non ho ancora deciso cosa farò. Passo passo, c'è tempo, tutto può succedere, io non escludo niente. Beh, clamoroso, Rivede nel Movimento di Grillo gli albori della Lega? Certo, risponde lei. Rivede nel Movimento di Beppe Grillo quell'entusiasmo, quegli slogan, quel populismo anche, diciamolo, diciamoci la verità, sì, che c'era magari, certo, agli albori della, certo, Lega, anche, lo rivede? Certo. Tra le immagini Rosy Mauro, grillina. Perché mamma mia? Perché tu sei un po' hai queste cose lombrosiane, cioè tu guardi Rosy Mauro e immediatamente immagini la strega con la fattucchiera e tutto. Comunque voglio far guarire Ciancimino dalla depressione, Gasparri. Ciancimin, sembra uno, non deve neanche cambiare nome, no? Ciancimin, che conduce la rubrica Storia del figlio di un mafioso. Mi piace? Ciancimin. Un altro, questo non basta, non basta per la depressione di Ciancimino, vabbè, dopo, però Ciancimino resti lì, 800 24 00 24, in collegamento da Bruxelles, Strasburgo. E Speroni, Enrico Speroni, Lega Nord, buonasera. Buonasera a tutti e a tutte. Come andiamo? Servizio pubblico stasera, Servizio pubblico stasera, Speroni, C'è quello, c'è il servizio. Si prepara pubblico a combattere stasera con Santoro, fra poco. Non è che si combatte, si va e si dice la propria, penso che sia una cosa normale. Beh, lei sa che sarà il capo, cioè sarà, diciamo, il bersaglio vero, insomma, della puntata. Sarà lì e torturato, vessato. Beh, allora è vero quello che dite voi, che ce l'hanno tutti con noi. Bene. È vero quello che dicono, ce l'hanno tutti con noi, cioè se uno va solo perché della Lega deve essere un bersaglio, mi sembra che c'è qualcosa di strano. Beh, sarà il protagonista, sarà il piatto forte, secondo me lei. Beh, però in collegamento perde un po' di... Vabbè, ma tutti in collegamento perdono, ovviamente. Un conto essere presenti in studio con, certo, gli altri, un conto dubbio essere collegamento. D'altro canto, visto che gli elettori hanno voluto che fossi a rappresentarli a Strasburgo, sono qua. Vabbè, quello lo sappiamo. Qui si è fatto pagare. Questo lo sappiamo. Oggi ha fatto qualche altro record di velocità a Strasburgo in questi giorni, Speroni? No, non ho fatto record. Niente, ma si è un po' distratto guidando a 300 all'ora o a 250, 270? I guai della Lega passano anche così? Direi che i guai della Lega non c'entra niente con la velocità, non passano. No, questo lo so, però un momento quella di distrazione è una cosa mia, tranquillamente, che mi pago con i soldi miei. Ma certo, vabbè, ma non c'è dubbio. Ma no, perché qui c'è il dubbio ormai su tutto. La casa di Calderoli, no? La casa di Calderoli. La casa di Calderoli, allora, se intanto la cosa strana è che l'hanno scoperto i carabinieri del nucleo operativo ecologico. Forse c'entra, perché Calderoli non faceva la raccolta differenziata, roba del genere, insomma, perché penso che il nucleo ecologico carabinieri abbia altro da fare che vedere se una casa è affittata e usata da Calderoli, da Speroni o da qualcun altro. Ecco, questo però, Speroni, è una stranezza. Sì. Voi ditemi se secondo voi i carabinieri ecologici vanno a vedere lasciamo perdere in un paese normale. Però lasciamo, perché lei che vuole dire? Cioè che c'è un complotto contro la Lega, dunque tutti quanti. Ma non c'è un complotto, ma ci sono delle cose strane, ecco. Di solito a vedere i contratti, se sono registrati, se si pagano le imposte, eccetera, eccetera, ci va la Guardia di Finanza. E quelli carabinieri ecologici, al di là di questo, lei trova normale lo smaltimento dell'amianto, no, eccetera. D'accordo, però Speroni, al di là di questo, no, e poi a un certo punto la Lega può prendere in affitto un appartamento o no? Pure secondo me, può infatti mettersi dentro chi gli pare o no? Oppure allora la Lega deve dire no, la Lega non può prendere in affitto appartamenti, non può mettersi dentro chi ci vuole, eccetera, eccetera. Cos'è? Mica sono le case popolari che si va a concorso, no? La Lega coi soldi suoi, perché sono soldi della Lega, no, compresi son soldi quelli pubblici che verso Calderoli e quelli che verso io. Sono soldi pubblici. Son no, soldi non pubblici. Sono solo sì, soldi pubblici. Sì. Allora, la Lega, se andate a vedere i bilanci, la Lega... No, tutti i soldi del finanziamento presumo pubblico, dico, i soldi no, del finanziamento... Allora, la Lega ha una parte di introiti dal finanziamento pubblico e un'altra parte, ad esempio, dai versamenti volontari dei parlamentari, dice, compresi Calderoli e Speroni. Perché escludere che quei soldi per l'affitto siano pagati con i contributi... È perché i soldi c'è scritto su da dove vengono. No, no, ma su questo, guardi, allora, Speroni, io sono d'accordo ma che se... Anche fossero, ma se anche venisse al finanziamento pubblico, è qualcosa di immorale che un dirigente di un partito... Sì. Abbia un ufficio pagato dal partito, si deve pagare l'ufficio. No, ma infatti su questo, certo, la casa sarebbe meglio di no, cioè sarebbe meglio che non unire le due cose, cioè c'è l'ufficio pagato giustamente con i soldi del finanziamento pubblico come fanno tutti i partiti, certo se ci abiti può venire qualche sospetto che la casa tua a Roma... Oppure può venire il sospetto che uno per lavorare meglio non deve neanche fare il tragitto dalla casa all'ufficio. Perché praticamente lavora sempre lì. Ho capito, cioè Calderoli per lavorare meglio preferiva avere casa e ufficio, no? Ma la Lega ha fatto questa scelta, se no mica le pagava la Lega, no? Dunque la Lega ha fatto la scelta che la casa e l'ufficio coincidessero per quello che riguarda Calderoli. Mi sembra una scelta che non c'è niente di illegittimo tanto per cominciare, ma neanche di immorale, perché è normale tante volte appunto che un dirigente di un'azienda, di un ente eccetera, abbia casa e ufficio insieme. Senta, è stato attaccato oggi anche suo cognato. Suo genero Reguzzoni dal capogruppo, poi la cosa pare sia rientrata, almeno sembra. Ma allora, ha detto 90.000 euro, Reguzzoni ci deve spiegare, ha detto questa mattina Gianluca Pini, esponente della Lega Nord, molto maroniano, ha detto insomma... Come sono stati spesi? Ecco, allora, lanciando dubbi sul modo in cui sono stati spesi quei soldi. Dunque, mi sembra che Reguzzoni ha una casa, un ufficio, un'email, un cellulare, eccetera. Sì. Quindi se qualcuno vuole chiedere qualcosa su Reguzzoni, ha tutti i modi di contattarlo senza dirlo ai giornali o alla televisione, tanto per cominciare. Poi, a un certo punto, Reguzzoni non è più capogruppo, sappiamo anche quello che è successo, e quindi se... Pini voleva sapere qualcosa, andava dal capogruppo nuovo, dal tesoriere della Lega alla Camera e gli chiedeva tutte le spiegazioni che voleva. E invece facendolo in TV che ha fatto? Facendo questa denuncia in televisione? Ma ha fatto... Si è comportato come un pirla? A un certo punto non sa dove andare a chiedere le cose. Un pirla? Perché... No, non un pirla, quantomeno qualcuno che appunto non sa l'indirizzo a cui si chiedono le cose. E dunque che cosa? Un ignorante? Uno come lo definisce? Ma io non voglio... Ma sì, gli aggettivi ci piacciono. Tutti leghisti, ecco, mi tengo fuori da tutte queste cose. Però ha attaccato suo genero, insomma una cosa di famiglia, lei è rimasto toccato da questa cosa. Ha chiesto delle spiegazioni in una sede che non era quella giusta, tutto qua. Ecco, cioè, se io voglio sapere qui al Parlamento europeo quanti soldi si spendono per una cosa, non vado in televisione o sui giornali, vado o dal presidente Schulz o dal segretario. Senta, però lei deve ammettere qualcosa, sì, Speroni, che i soldi che io, guardi, su molte cose posso essere d'accordo che c'è un'insistenza su dettagli, sì, che in realtà potrebbero essere comuni anche ad altri partiti, cioè spese fatte per la casa, per il sindacato. Ma non ci sono soldi per la casa, per il sindacato, qui sono soldi spesi per il gruppo attraverso la carta di credito del gruppo. Ora, sì, ma scusi, siccome siamo usciti da un po' dal Medioevo, no? Sì. Si usano anche le carte di credito per pagare, giusto? Sì, sì, no, per carità. Allora, Ruzzoni ha lasciato nelle casse del gruppo 2 milioni di euro, 31.156 euro e pure 82 centesimi, per essere precisi. Ma non hai capito, Speroni? Cioè, che cos'è che non ha capito? Certo, scusa, Speroni, scusi un attimo. Il gruppo organizza la festa per il compleanno dei 70 anni di Bossi. Sì. E lo paga con la carta di credito. No, quella è una spesa normale. Certo, no? Certo. No, allora, Parenzo, che dici? Non hai capito, Speroni, ti voglio bene. Ma dove ti trovi, Parenzo, che non si sente niente? Dove ti trovi? Oh, Madonna, sono a bordo di un torpedone e sto arrivando a destinazione. Ma mi senti benissimo? Mi senti o no? Sì, ti sento, però dai, su, forza. Ma no, ma dico a Francesco Enrico Speroni, a cui voglio bene, che questo qua non se la deve prendere con la magistratura, se la deve prendere con i suoi stessi compagni di partito, perché sono loro che stanno ponendo e stanno facendo un culo così. Infatti stavo parlando di Pini, ho mai parlato di magistrati? Ma infatti non è che c'è un attacco alla Lega. No, però lei dice... Non c'è nessun attacco. Lei dice che... Mi stanno attaccando da dentro, un attimo, sì, vi state scannando tra di voi, su questo non c'è dubbio. Però, scusi un attimo, Speroni, è vero che vi state scannando un po' tra di voi, un po', o no? Sì, su, è quella civile. Quello che fate le uscite che, ripeto, non condivido, a cominciare appunto da chiedere informazioni in televisione e sui giornali anziché al diretto interessato a chi può darle. Come ha fatto appunto, se andava, anziché Reguzzoni, andava Pini al gruppo alla Camera, vedeva tutte le carte. Non è più la Lega di una volta, non c'è niente, non è più la Lega di una volta, in cui uno non parlava così in televisione, no, troppa libertà. Ma in effetti c'è qualcosa che è molto cambiato. Quando sono entrato nella Lega eravamo tutti uniti, adesso sembra quasi che sia un covo di vipere, ecco. Questo qui è la cosa che mi dispiace di più. Eh sì, tutti contro tutti, ogni giorno qualcuno che se la prende con quello. No, con tutti contro tutti, 3 o 4 contro altri 4 o 5, perché vabbè, diciamo, insomma, adesso non si può... di migliaia, ma anche i deputati, tanti senatori sono qualche centinaio, alla fine sono solo 3 o 4 che si agitano. Beh, insomma, cioè, adesso non solo 3. Lei dice i maroniani si agitano troppo, per esempio? Ma io non parlo di maroniani o altro, dico solo che magari, ecco, una cosa che qualcuno dice che in altri tempi non sarebbe andata da nessuna parte, adesso trova pagine sui giornali, trova video, riportati. Ma c'è qualcuno che si vuole fare bello in televisione? C'è qualcuno che Beh, bello, insomma, guardarci a te faccia, è difficile dire che uno si fa bello. Per esempio, ecco, che Pini è pure brutto. No, non dico che è brutto, io non sto come quella signora che parlava prima, io sono etero, quindi al massimo mi può chiedere se una donna è bella, gli uomini lascio guardare a qualche altro. Va bene. Abbiamo la borsa, no, la pubblicità, torniamo tra un attimo, resti lì. Da Strasburgo, Enrico Speroni, un mito, una leggenda, uno dei fondatori della Lega Nord, per parlare di questo momento complicato. Oggi ci si è messa pure questa storia dell'affitto di Calderoli e anche le accuse di Pini sulle spese allegre, tra virgolette, del, secondo lui, del capogruppo Reguzzoni, che per caso è anche genero del signor Reguzzo e Speroni. Eh sì, 20:16, 800-24-0024, questa è la Zanzara. E beh, avete sentito Enrico Maria Speroni, europarlamentare della Lega Nord, capogruppo della Lega al Parlamento Europeo, nonché parente stretto di Marco Reguzzoni, ex capogruppo alla Camera, oggi duramente attaccato da un altro esponente leghista. Insomma, avete capito che la situazione della Lega è ancora esplosiva, anche per quello che è uscito fuori oggi sulla casa di Calderoli. Sulla casa di Calderoli Speroni ci ha appena detto... Beh, è casa ufficio, che male c'è se il partito paga un ufficio che poi viene utilizzato anche come casa, come, no, abitazione abituale di Calderoli? Perché devono indagare i carabinieri del NOE? Però qualcuno mi scrive, Speroni, che i carabinieri del NOE sono ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal PM. Ma certo. È strano, perché il PM può delegare tutti, la Guardia di Finanza. Appunto, in questo caso ha delegato. Ma ripeto, non è una questione di ecologia, visto che ha usato il nucleo ecologico. Ripeto, è una cosa che a me pare una stranezza, probabilmente il procuratore invece lo ritiene opportuno. Senta, oggi carità, Pini, una scelta sua. Pini, tra l'altro, sai che è il capo del NOE? No, chi è il capo del Nord? Il grandissimo ultimo è il capo del Nord. Ah, ultimo, ultimo. Allora, Pini, tra l'altro, ha detto che ci saranno anche altre espulsioni probabilmente nella Lega. Non c'è un'area di epurazione in questo periodo, Speroni? Ma c'è qualcuno che magari cerca rogne, perché appunto anche questa storia della carta di credito. La carta di credito è forse la cosa più trasparente, no? Perché... Beh, tutto registrato, certo. Quando uno fa un bonifico o dà un assegno, non parliamo del contante... Ma chi cerca rogne, scusi? Pini a un certo punto va a fare... Maroni ha detto che non accetta che nessun leghista accusi, insulti altri leghisti, no? Sì. E quindi se Pini è maroniano dovrebbe stare zitto. Rispettare questa dovrebbe direttiva. Stia zitto, ecco. Pini. Quindi, stia soprattutto, ripeto, in una maniera così strana, perché, ripeto, con la carta di credito è tutto controllato. Però scusi... Mentre se io faccio un assegno di 1.000 euro, certo, a qualcuno, non c'è... né quando l'ho fatto, sì, ci metto la data, però... Vabbè, questo non significa che tu hai fatto tutte, come dire, spese corrette, anche se le hai fatte con la carta di credito. A un certo punto ci sarà scritto che se io si è parlato della festa di 70 anni di morte, saranno stati dati a un ristorante, immagino. Se ha comprato un computer su internet per il gruppo, ci sarà scritto dove l'ha comprato. A volte c'è scritto anche cosa ha comprato. Però, Speroni, quindi... scusi un attimo, io voglio chiedere una cosa, ma... Voglio dire, quella carta di credito era l'unica carta di credito del gruppo. Ora un gruppo che muove milioni di euro ogni anno, troppi. Vabbè, questo è tutto un altro discorso. Troppi. A questo punto, se di questi euro che spende il gruppo, una parte diciamo minima rispetto al resto viene pagata con la carta di credito, mi sembra una cosa normale. Senta, io voglio capire una cosa, sente aria lei, che è nella Lega da tanto tempo, molto vicino alla famiglia Bossi, però devo dire anche in questa contesa con Maroni si è tenuto sempre al di sopra delle parti, Speroni, o al di sotto, dipende, insomma. Allora voglio capire una cosa, Speroni, non sente aria di epurazione? Cioè si dovrebbero calmare questi maroniani o no? Ma adesso bisogna vedere, perché non so se dietro c'è Maroni o c'è qualcuno che fa il maroniano, cioè più realista del re, più maroniano di Maroni. Cioè? Vuole cercare vendette? Oppure vuole cercare vendette? Può anche essere cosa che, ad esempio, non riscontro qui nella mia delegazione al Parlamento europeo, ci possono essere anche degli attriti, dei contrasti a livello personale, ecco, magari perché uno non ha avuto una carica a cui aspirava. Ci sono queste cose. Vendette personali, piccole vendette personali. Ecco, io ripeto, qui in Parlamento europeo, forse perché siamo solo in 9, quindi è una platea. Se ve scannate pure voi, se ve scannate pure voi, sarebbe il massimo. No, voglio dire, qui mi sembra che ci sia una buona armonia. Ma lei ci andrebbe con Grillo come la Mauro? Ma la Mauro non l'ha detto, naturalmente, però insomma. Ma vede, Grillo è un buon catalizzatore di consensi, di voti, questo poi si vedrà alle elezioni. Però posso dire che un vero programma non ce l'ha, cioè ad esempio dire, non so, i condannati non entrano in Parlamento, infatti lui è molto coerente, siccome è stato condannato sia pure per omicidio colposo, non si è mai candidato. Però il fatto che uno non sia condannato, vabbè, entrano quegli altri non condannati, ma con che programma? Cosa vuol fare? È questo che sul problema, non so, del debito pubblico, oggi ha detto una cosa, adesso le faccio ascoltare sulla divisione delle carriere della magistratura, eccetera. Vabbè, qual questo... è il programma di Grillo? Però le faccio ascoltare adesso una cosa di Grillo di oggi, perché Grillo oggi ne ha detto un'altra delle sue, in realtà non l'ha detta oggi, ne ha detta una in un'intervista a favore della Lega. No, quella nei giorni scorsi, ha detto una cosa nei giorni scorsi a favore della Lega, effettivamente, cioè ha detto che viene colpita dal sistema perché è all'opposizione, cioè c'è un complotto contro la Lega, hanno voluto far fuori la Lega perché è l'unica forza di opposizione, insomma, vi è stato anche vicino in questi giorni, Grillo? Io mi preoccuperei. Appunto. No, sì, ma spero. Io non è che mi preoccupo, anche perché non penso che ci possa essere un'alleanza con Grillo, anche se posso dire a livello personale, nel Consiglio Comunale Bustarsito, dove sono presente, c'è anche un esponente di Grillo, Grillino Sablic, che è un'ottima persona, ovviamente politicamente non sempre siamo d'accordo. Ma lei si allerebbe mai con Grillo? Ma non so quale sia il programma di Grillo, ecco. Poi intanto le faccio sentire questo, magari le piace, magari questo le piace. Prima Rosi Mauro, no? Lega all'inizio, eccetera. C'è una grossissima differenza. Grillo è un indistinto, chiamiamolo così, no? Ecco, noi invece siamo il partito del Nord, questa c'è una bella differenza, insomma. Beh, adesso, Grillo, anche se ligure e quindi appartiene geograficamente alla Padania, però politicamente è lontano da questa nostra idea, quindi vedo ben difficile qualunque alleanza. Beh, guardi questo invece, senta questo, uscire dall'euro, Sei per uscire dall'euro? Io sono per valutare una seria proposta di col minor danno possibile, di rimanere in Europa ma uscire dall'euro. Col minor danno possibile. Quindi dichiarare default, cioè non pagare il debito, non pagare gli interessi. Assolutamente, o pagarne una parte. Si dice, signori, avete rischiato su un paese che è fallito. Beh, insomma, sono cose che anche la Lega dice, diciamo, ormai non uguale. Le dice. Questo lo diciamo chiaramente, sono sottoscrittore insieme. Siete come Grillo ormai, come Grillo. Una dichiarazione scritta qui al Parlamento Europeo proprio dice di valutare la possibilità, ma non che l'Italia esca dall'euro, Speroni, che proprio si chiuda con l'euro perché dite le stesse cose. Noi l'euro ha portato più. Ho capito, d'accordo, non entriamo nel dettaglio, dite le stesse cose, Speroni. Diciamo alcune cose uguali, altre sono diverse. Per dire, padania indipendente, cosa dice? Ma lui non lo dice perché se ne fotte della padania indipendente. Vabbè, allora io devo andare con uno che se ne fotte della padania. La cosa principale per cui c'è la Lega. Vabbè, ma quella la Lega, la padania. Ma nessuno, ma lei lo sa. Se ne fotteva della padania indipendente. Ma lei lo sa che questa storia della padania indipendente è tutta una farsa, su, spero. Ma non esiste. Non è assolutamente una farsa. Può essere il sogno di un barbaro sognante, ma sì, però sogno. Non è una farsa. Ma un sogno così. Ma com'è? Lo stesso valore che ha quando tu porti un bambino a Disneyland, c'è il castello delle fate, è chiaro che non esiste in natura. No, ce l'hanno costruito. Castello delle fate, ma ecco. Sì, poi il galeone selvaggio. Gli Eritrei, che hanno avuto gli abitanti di Timor Est, del sud. Ma siete minoranza lì, anche al nord, siete minoranza rispetto a questa ipotesi di indipendenza. Non ci ha mai permesso di contarci. In tanti altri paesi si è fatto un referendum su questo. Ma lasci perdere il referendum. Allora come la democrazia dove la mettiamo? Sotto le scarpe? Ma no, ma la Lega Nord per l'indipendenza dalla Padania al nord è netta minoranza rispetto a quelli che non sono per l'indipendenza. Allora, anche Pannella è sempre stato netta minoranza, però quando ha potuto fare il referendum si è dimostrato che aveva una maggioranza di consensi. Noi un referendum sull'indipendenza Padania non ce l'hanno mai concesso e quindi nessuno può sapere se gli abitanti del nord della Padania sono o non sono a favore. Ma no, ma Speroni, questo ascolta. È un fatto politico. Lo stesso Speroni ha lo stesso valore di Topolino. Dice Topolino esiste. Certo che esiste Topolino, perché è stato creato da Walt Disney. È una roba che esiste Topolino. Se uno va a Euro Disney, Topolino lo vede. Ciao Topolino, e lui ti saluta Topolino. Dentro però c'è un uomo, non è Topolino allora, veramente. Perché quando ad esempio noi diciamo che la Padania esiste, qualcuno magari da un colle molto alto a Roma dice che non esiste. E per forza. Neanche dice che esiste come Topolino, dice proprio che non esiste. Allora, c'è qualcuno che ha paura di Topolino? Qualcuno ha detto, il sindaco di Roma ha detto di recente che la secessione è un reato qui alla Zanzara, un reato che va punito, chiunque è a favore della secessione Maroni dovrebbe cacciarlo. Alemanno, signor Alemanno, Vabbè, Alemanno pensi a fare il sindaco, non mi sembra neanche che sia avvocato, magistrato, altro, quindi se qualcuno commette un reato non spetta ad Alemanno dirlo, se poi ha dei sospetti vada da qualunque procura che in questi tempi è benissimo disposta contro ad aprire Lega. Un'indagine sulla Lega e mettere tutti sul registro degli indagati. Senta Riccardo, fate questo se ha il coraggio alle mani, anziché star lì a parlare come Pini. Senta Riccardo Bossi, tutto iniziò in realtà questa storia della family, no? Della famiglia, iniziò con lei Speroni, diciamo la verità, il primo in assoluto avuto da un membro della famiglia Bossi fu proprio con Speroni al Parlamento Europeo. Beh, io non so se Riccardo Bossi ha avuto qualche lavoro prima. No, col partito no, sto dicendo a livello di coinvolgimento nella politica, di incarico avuto, diciamo, se parapubblico, semipubblico, eccetera. Diciamo che un assistente parlamentare è un collaboratore, un dipendente del parlamentare come... Ma non fu un errore anche questo? Ma diciamo, forse non... Allora, un errore. È stato praticamente un periodo di prova di 9 mesi, poi lui stesso ha detto questo non è il mestiere che mi piace, se n'è andato via. Ci furono polemiche, eccetera. Tra l'altro è un guidatore, fa anche dei rally, si è schiantato pure con la sua macchina. L'idea può succedere, io spero che non succeda a me, però l'idea delle elezioni, Speroni. Come? Ma l'idea delle elezioni lei? Non ho capito. Io non sono un pilota di rally, io sono bravo, si fa per dire, a correre in autostrada quando è diritta. Chi invece corre nei rally, in circuito, eccetera, è bravo a affrontare le curve. Ma l'ha avviato lei alla guida? L'ha iniziato lei alla guida, Riccardo? Quando no, assolutamente, penso sia una passione sua. Poi lui fa il professionista, ripeto, io sono un dilettante, magari anche scarso, perché appena vedo che so io che c'è un po' di umido... sulla strada no, non corro più. Ma che mestiere fa Riccardo Bossi, per esempio? Uno dice che uno fa un mestiere, che mestiere cosa fa? Cosa vive? Ma ultimamente, che sappia, lui era corridore della scuderia Audi, o comunque correva professionalmente, quindi traeva il suo reddito dalle corse automobilistiche, ecco. Vabbè. Ovviamente non di Formula 1 o altro, ma ci sono tante categorie e lui era in una di queste, ecco, quindi vabbè. Vediamo un po'. Va bene, buona serata. Buona serata. Grazie. E auguri a tutti e a tutte. Bene. Grazie. Dove andiamo? Francesco da Bari, 800 24 00 24. A Bari c'è un altro casino adesso. Francesco, buonasera. Vada. Buonasera, vado a brille sciolte, nel senso che posso dire ciò che voglio, non credo. Assolutamente sì. Come sempre. Sì, capisco. Però ammiro la vostra trasmissione perché l'ascolto sempre. E, tra l'altro ho fatto un'osservazione, prima mi chiedevano di che cosa volevo argomentare. Era come incalzava lei le domande verso il dottor Farina. Un attimo solo però, Francesco, abbiamo la borsa, torniamo tra un attimo. Ernesto da Roma, Enzo da Bologna, Giovanna da Genova. Giovanna da Genova è ancora in linea? Vabbè, ci sentiamo dopo. Bene, siamo qui, ultima parte, ma manca ancora parecchio, rimanete lì incollati alla Zanzara su Radio 24 800 24 00 24. Eravamo però in debito con la signora Giovanna da Genova. Signora Giovanna. Sì, sono qua. Allora Formigoni che si paragona a Gesù e gli altri che si paragonano a Gesù non dovrebbero farlo, questa era la sostanza, no? Sì, però la sostanza è anche che io sono molto incavolata coi partiti. Prima ero vabbè, questa è una cosa persone, diffusa, sì. Una di quelle persone che faceva di tutto per andare a votare. Adesso io sarei fra quelli che vogliono restituire la tessera elettorale. Vabbè. Perché secondo me i partiti sono uno vale l'altro. Poi ci può essere l'Alessandra Mussolini che è molto simpatica, sì. Ma io non la voterei mai. Sì. E vabbè, voglio adesso dire, sono con lei, Cruciani, sì, quando lei dice no al finanziamento pubblico ai partiti. Vabbè. Perché vabbè, le carte di credito usiamo, ma usiamo le nostre. Io pago ma tutto non con carta di credito, però uso la mia, non ma quella non di qualcun migliora altro. La politica. Eh? Che cosa vuol dire non migliora la politica? No, Giovanna, ma perché deve cadere nella trappola dell'ottimo Cruciani? Non migliorano le ma cose. Cruciani è bravo perché dice le cose. Adesso abbiamo scoperto che Parenzo è a favore del finanziamento pubblico della politica. È una cosa strepitosa. Cruciani è lo Iago, Otello. Io sono Otello e tu sei lo Iago della radio. Lo Iago della radio. Sì, è Iago, perché con la sua pungente. Vabbè, io sono Desdemona, che sono lei stata abbassata. Lei è la nostra Desdemona, lei è la nostra passione, e invece io sono, lui è Iago, perché lui vivi liscia il pelo, questa cosa qui del figlio, i finanziamenti, la politica, lui è Iago, Cruciani, è Iago. Ma vabbè, no, adesso, coi tempi in cui siamo, è inutile stare a fare il finanziamento pubblico ai partiti, dice giusto, chi dice, vai in giro e prenditi i soldi porta per porta. Bussare alle porte e chiedere, certo, mi date dei soldi per fare campagna elettorale, altrimenti si resta a casa. Grazie. Tommaso da Padova, buonasera. Salve dica a tutti. La mia domanda è molto precisa. Voi sapete dove è finito Berlusconi? È scomparso dalla nostra vita, non è più tra noi, è ammalato. Vabbè, ma uno può passare anche un periodo in cui dichiara di meno, in cui è presente di meno. Quando è presente lo accusano di essere sempre presente, adesso che sta zitto le accusa di sta zitto, non lo so, cioè. Ma sono anni e anni che era presente tra noi, ho capito, evidentemente non vuole fare più ma non è ammalato. Ma che malato? Ma quando mai? Ma chi è malato? Berlusconi, tu naturalmente ti cade il telefono come al solito, vabbè. Ma ogni tanto può cadere, sono sì, le tecnologie, sai. Sì, cade il telefono, certo, quando sì, uno si mette in viaggio durante una trasmissione è normale che uno intanto può. Sono arrivato, sono sì, partito più tardi perché sono partito apposta per stare con te di più alle ore 20. Sì. E arriverò per colpa tua a destinazione in Toscana alle ore 23:30. Sarò da solo come un cane perché potevo partire prima, invece sarò solo come un ma cane. Ma tu dovevi partire prima, rispetto, dovevi partire prima, punto. Ma ho anche delle altre cose da ma fare. Ma non avevi miei nessuna altra cosa da fare, su. Il signor Bernabé, per i miei amici. Va bene, dai, Tommaso, su, lasciamo perdere queste stupidaggini che non interessano a nessuno. Tommaso, ho da fare dica anche altro. Sì, certo. Tommaso, dica. L'ultima cosa che voglio dire, ma in fondo Bossi non era suo amico personale, l'ha detto tante volte. È stato vabbè, male, allora, in crisi e piangeva davanti a tutti. Un messaggio di solidarietà, perché non gliel'ha dato? Va bene, d'accordo, ma chi l'ha detto che non gliel'ha dato? Che lei lo sa, è in collegamento, sa, conosce le conversazioni tra Bossi e Berlusconi, sa se si parlano o non si parlano. Pubblico, ma pubblicamente l'ha anche detto, no. L'ha anche detta qualcosa su Bossi all'inizio della vicenda della Lega, sono vicino a Bossi, eccetera. Poi effettivamente non ha detto più niente, ma insomma, chi se ne frega. Va bene, Enzo da Bologna, buonasera. Buonasera Cruciani, forse ho capito perché i no e i carabinieri del no sono andati a casa di Calderoli. Perché? Perché li ha chiamati, sono stati chiamati dai condomini per il cattivo odore causato dal porcellino di Calderoli. Che ah, il famoso maialino di Calderoli. Il famoso maialino di Calderoli, è quella la ragione per cui è partito il nucleo operativo ecologico, secondo me. Questo bisognava dirglielo all'amico. Esatto, a Speroni, anche perché poi, altra cosa che ho appreso stasera, tutti i parenti nella Lega. Cioè, molti parenti, in realtà è una impresa familiare, insomma. Molti sono entrati in politica, hanno a che fare con la politica, lavorano con il partito, non tutti hanno incarichi istituzionali o comunque nessuno, certo, non tutti sono eletti, eccetera. Di serie A, parenti di serie B, ma insomma. Diciamo che molti parenti sono coinvolti, è vero. C'è anche un altro partito che è così, che si chiama Italia dei Valori. Meno perché so di meno, però. Tutto a conduzione familiare. Ci sono molte cose a conduzione familiare. Molte cose a conduzione familiare, sì. Ma io comunque avevo chiamato adesso perché sono stato tirato dentro, avete sentito Speroni, insomma è dura poi tenere il ritmo con Speroni, perché come dire è volato alto, diciamo, con le sue sparate. Comunque io avevo chiamato soltanto per dire che Monti, che è un'ottima persona, per carità, ma insomma a sto punto dovrebbe un po' abbandonare la sua aplomb britannica e diventare un pochino più diciamo cattivello. Perché dovrebbe imporsi un pochino nei confronti dell'ABC, perché noi ce ne abbiamo le tasche piene di questo alfabeto, dalla Z. Vabbè. E quindi lei ha ragione, dovrebbe essere molto più autonomo rispetto, si è un po' democristianizzato il signor Monti, o Rigor Montis, come lo chiama Grillo in maniera quasi funerea. Bene, grazie Enzo da Bologna. Questo qua, Michele da Treviso. Pronto? Michele, dica. Buonasera. No, volevo dire che l'onorevole Rarussa mi fa un po' ridere quando parla del problema degli omosessuali, la famiglia, tutte quelle storie lì. Ma che cosa fanno loro per la famiglia? Cioè, il problema adesso sono gli omosessuali. Cioè, voglio dire, anche i precedenti governi in Italia, comunque io ho una famiglia con tre bambine, sì. Cosa fanno per la famiglia? Non fanno niente, si pongono sto problema adesso, queste difficoltà, cioè gli omosessuali sono un problema adesso con tutto quello che hanno creato per la famiglia, per le difficoltà che trovano tutti i giorni. Guardi, le faccio un esempio molto semplice che è molto significativo. Io purtroppo ho avuto, ma mi è andata bene, voglio dire, perché mia figlia ha avuto un problema, ma ho avuto contatto con dei bambini oncologici che per avere 270 euro di pensione, 270 euro al mese di pensione e hanno sbagliato una carta da scrivere, non gliel'hanno data, e questi qua parlano degli omosessuali, il problema d'Italia sono omosessuali. Ma francamente mi viene da ridere, per non piangere evidentemente. Beh certo, no? grazie Michele, grazie. Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi normali. Canta insieme a noi. Sanno piangere, sanno ridere, sanno battere le mani. Proprio come noi. Sole e sole. Gli uomini sessuali non ci avranno gli assolventi. Fantasia da questa loro atroce malattia. E se ridu così, ridri, e se ridu così, cretino. Ebbe a dichiarare un importante esponente parlamentare dell'IDP, ebbe a dichiarare di reputare l'omosessuale un diverso e anche peggio, e di essere lui normale e gli altri anormali. E non ricordo che l'IDV si sia scandalizzata più di tanto, non ricordo mozioni da parte di Zamponi. E se ritrovo così. l'omosessualità può essere considerata a livello psicologico una deviazione, seppur tollerabile e assolutamente da tollerare. Una specie di disordine, una deviazione da cui tuttavia, qualora lo stesso soggetto ne abbia la volontà, è capitato di uscire e di tornare alla condizione di eterosessualità. La Russino! Hai visto, hai sentito con quale pomposità, con quale anche altezzosità, con quale senso di, no, come se stesse facendo un discorso, no, un discorso da statisti lì al Consiglio regionale della Lombardia. La comunità gay vuole prevalicare. La comunità gay vuole prevalicare. Moltissimi cittadini che ritengono che la voglia di esternare atteggiamenti eccessivi e inaccettabili nelle piazze nasconda in certi settori della comunità gay l'istinto di voler prevaricare chi ha altri gusti sessuali. Romano La Russa al Consiglio regionale. Bene, quando sei più comodo, quando sei più tranquillo, più comodo, quando sei più comodo. Ma il Consiglio regionale. C'è una trasmissione radiofonica quando sei comodo, dimmi. Ma sono comodissimo, ma sì, quel sì. Consiglio regionale lì, anziché parlare di queste cose, si occupassero dei 9 indagati, delle inquisiti, delle persone che si stanno dimettendo uno a uno, parlassero ecco di la cazzata, ecco la cazzata di Parenzo delle 20:45. Un dibattito sugli omosessuali, ma ti rendi conto di cosa stiamo parlando? Parlassero degli inquisiti. Ma lì veramente l'ha fatto l'opposizione perché voleva fare una mozione di censura. Ogni giorno sugli inquisiti. È arrivato Torquemada, traffico. No, tutte le mattine. Traffico, è arrivato Torquemada. Ma vedi di rispondere al telefono invece di dire stronzate, su, via. Abbiamo Domenico da Milano, veloce Domenico. Sì, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Vada. Volevo rispondere all'esponente della Lega. Io faccio parte del Movimento 5 Stelle di Grillo. Allora, io volevo chiarire una volta per tutte, noi non siamo populisti, non ma siamo chi lo vuole chiarire, politica, scusa. Non siamo anticasta. A chi lo vuole chiarire? Non ho capito a chi lo vuole chiarire. Al mondo, Peroni, all'Italia, a chiunque, benissimo. Deve venire qua a chiarire che il Movimento 5 Stelle non è populista. Non siamo, c'ha ragione, non siamo antipolitici. Vabbè, non è antipolitica, benissimo. Vabbè, d'accordo. Poi, allora... Noi vorremmo fare una politica diversa. Noi siamo anti-mafia, anti-politici corrotti. Una cosa originale. Sì, chiaro, è una cosa normale, scontata. Però è così. Ora, Grillo, cosa ha fatto Grillo? Intanto organizzatevi in partito. No, però, scusi, non può telefonare dicendo io sono antimafia, voglio sapere che è un pirla che dice che è quello della mafia. Lei ha ragione, Parenzo, è una cosa scontata, però di questi tempi magari è meglio dirlo. Però, come dire, io sono a favore del sole e dell'acqua. Dici sì, d'accordo, il sole, certo, cioè, voglio il sole. Allora, Grillo ha fatto una cosa, Grillo ha preso un'occasione che gli altri esponenti politici si sono fatti scappare. Ha detto alcune cose che in questo momento ai cittadini italiani stanno molto a cuore, quindi... Vabbè, però adesso non ci venga a fare la predica grillina sull'Italia eccetera eccetera. Che ci serve questa cosa qua a noi? Mi spieghi che ci serve? No, perché io adesso sto sentendo in questo periodo in televisione, in radio, vabbè, forse Radio 24 no, perché Giannino ne sta parlando anche nella sua trasmissione, però si ripete molto l'anticast, l'antipolitica, il populismo, ma non è questo, il movimento di Grillo non è l'antipolitica e non è il populismo, è una cosa diversa. Va bene, d'accordo, ha detto la sua, grazie Domenico. Franco Zotti, uno che si è travestito con la cravatta verde, nudo, con le mutande verdi, e si è candidato, almeno così appare su internet, si è candidato, probabilmente non solo su internet, anzi spero solo su internet, anche perché per me non è un bel vedere, però per me non è un bel vedere, e si è candidato per la Lega a Gorizia, sbaglio Zotti? Sì, buonasera, buona Padania a tutti intanto. Ancora con sta Padania. La Padania, noi ci crediamo ragazzi, noi ci crediamo. Lei ci crede, ma che scusi, perché lei si è messo con una sorta di, con il simbolo di che cosa, le due dita così, con la cravatta, tutto nudo, lei è pure peloso. Esatto. No, quest'altino lì fa parte di un manifesto 3 metri per 6, che era in una città di Gorizia, dove c'era scritto, la foto mia era a metà, diciamo, quella L faceva parte della Lega Nord, si scriveva L con il Lega. Sì, vabbè, lei è in ginocchio con le mutande. In ginocchio perché sono in ginocchio come la nostra Italia, ormai l'Italia è in ginocchio, io rappresentavo l'Italia. Infatti c'era scritto al fianco, c'era scritto ci hanno ridotto così. Sì, ma ci hanno ridotto così, l'hanno ridotta così, perché io non mi sono ridotto così. Abbia pazienza. Penso che anche lei, quando gli arrivano le bollette a casa... Ho capito, ma io non è che mi spoglio, mi metto la cravatta verde, le mutande verdi, tutto nudo, con la pancia di fuori, tutto villoso, con uno spadone in mano e col simbolo della L, abbia pazienza. Però ti spiego una cosa, era l'unico modo mio di protestare contro questo governo. Beh, l'unico modo adesso. E soprattutto in mutande, perché io sono contro Equitalia che ti porta via la casa, le macchine. Vabbè, è anche... tutta la metafora di Franco Zotti. Ma è pure un'anomalia il signore. In che senso? Quindi è una grandissima anomalia nella Lega, perché mai i manifesti nella Lega non esistono manifesti personali, mai, solo con la faccia di Bossi. Se ma io come candidato, storia. Se permette, come candidato. Ma posso i candidati fare... ci sono. Ma è un unicum, assolutamente no. Guarda, scusi un attimo, Zotti. Vabbè, adesso non fare il filosofo, Parenzo, che ce frega? Ma non è il filosofo, uno che si mette ma chi in mutande, se ne frega? Beh, quello è un altro discorso. Comunque, diciamo che ognuno è libero di mettere quello che vuole sul suo manifesto politico, giusto? Scusi, Zotti, ma lei è maroniano? No, io sono, tengo per Bossi. Sono tiene per Bossi, e come considera Maroni? Ma è una persona validissima, io penso ma come ha detto che era un traditore? Io no. Io non ho mai detto che un traditore. No, ho letto delle cose, un traditore, un Giuda. No, non l'ha detto. Io oltretutto non sono neanche su internet, cioè questa cosa è andata su internet a mia insaputa, non è che ho fatto... Tutto a sua insaputa, cioè mettono una sua foto con le mutande verdi, la cravatta verde, il petto tutto villoso fuori con lo spadone in mano a sua insaputa. Perché io, se lo mettevo io su internet, mettevo tutto il manifesto, dove c'era scritto sul lato destro, se non vuoi morire di noia, vota Zotti con gioia. Allora questa era, com'è sta cosa? Se non vuoi, morire di noia, vota Zotti con gioia. Cioè questa faceva parte del manifesto completo che purtroppo non c'è. Se non vuoi votare, è una cosa anche originale, diciamo, no? Certo, io ho fantasia, perché io oltretutto nella campagna della provinciale l'altro anno mi ero fotografato in giacca cravatta come tutti i politici seri con due belle palle in mano e c'era scritto io c'ho le palle e tu? Punto di domanda, vota Lega. Infatti sono stato candidato e sono stato eletto, quindi vuol dire che questi manifesti portano sicuramente voto. Bene. Adesso vediamo se questo mi permetterà il lusso. Ma questo qua quanti ne fa di questi manifesti? Nudo, con le mutande? No, ho fatto 2-3 manifesti da 6 mesi. Sì, ma si tolga un po' di peli però, Zotti. Ma io penso che quello lì non è pelo, quello è muschio che cresce sulle rocce. Quindi come, scusi? Muschio che cresce sulle rocce. Sa che sulle rocce in montagna c'è il muschio? Ecco, noi siccome di noi della Lega siamo delle rocce, quindi noi abbiamo il muschio, quello lì è il muschio. Lei è un genio, Zotti, però lei è un genio, devo dire un genio. Lo spadone, la L, la cravatta verde, le mutande verdi, poi si nota anche una certa consistenza, diciamo. Vabbè, le cose nascoste non si possono far vedere. Vabbè, ci risentiremo più avanti durante la campagna elettorale. La ringrazio intanto. Buone. Franco Zotti, l'uomo nudo con la cravatta verde e lo spadone, a domani 18:30. Se ti piace questo spettacolo quotidiano, ma tieni questa roba qua. Ti piace così? Va bene. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. La Zanzara.